Matteo, dimmi come mai e nessun martello poi trovai. Tanti tanti chiodi mi comprai, che nessun martello attacco mai. Tanti tanti chiodi mi comprai e nessun martello mai trovai. Tanti tanti chiodi mi comprai, che nessun martello attacco mai. Io corro presto, fanculo tutto il resto. Io torno presto, fanculo tutto il resto. Non ho mica capito il tuo gesto. Se mi sputi aspettati il resto, perché il meglio che possa fare è cercare di non farmi più chinare. Fatto il figlio invece no. Poi c'è la mia vicina che rompe il cazzo alle 6 di mattina. Forse perché guarda i film di Belmondo.